Passano gli anni, cambiano le cose. Ciò che era vino oggi è solo inchiostro. Ciò che era cuoio oggi è solo ranno. Ciò che era vero oggi è solo inganno. Tutto è tormento e miseria. Le leggi mi fanno paura. Ho in cuore un gran turbamento. Confusa in un vicolo cieco, domando sollievo al mio canto. Il tempo che vola altrove muta le cose in altre. Io nacqui nel grano soave, ma la semina si fece stenta, il raccolto di poca cuccagna e la speranza rimase monca. La gente non saprà mai che cosa accadrà domani, che cosa il domani sarà, la gente mai mai lo saprà. Entrai nel garofano dell'amore, sconvolta dai suoi colori, rapita dallo splendore del fiore più prelibato, fiero della mia passione, ma perse come una ferita che pianse non rimarginata nell'orto dell'oblio. Il fiore non mi si schiuse, quante lacrime perse.